Buongiorno a tutti gli ascoltatori, da Andrea Baggioli, Scatola Sonora, programma cura di Lorenzo Chiera. È con noi, intanto il tecnico Fulgenzio Belli, che saluto, e Emanuele Pappalardo per il suo ciclo sulla musica contemporanea cinese. Non so se invece io mi sono annunciato, è Andrea Baggioli al microfono. Un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Bene, direi allora che possiamo lasciarci introdurre al tema di questa seconda, questo secondo incontro su quanto accade nel mondo musicale cinese, attualmente nel mondo musicale cinese, da questo, possiamo lasciare introdurre da questo breve, questa breve intervista che ho fatto a Shanghai con un compositore della nostra generazione. Senza la rivoluzione culturale, probabilmente sarei diventato un tecnico. In ogni caso, non mi sarei di certo dedicato alla musica. In quel periodo vivevo a Guiyang, un piccolo centro nel sud della Cina. Nella mia famiglia nessuno era interessato alla musica. Quando ebbe inizio la rivoluzione culturale, fui mandato in campagna. Un amico mi diede alcune lezioni di violino e dopo un anno potei suonare nella locale troupe dell'Opera di Pechino. Contemporaneamente iniziai a suonare in quartetto con un gruppo di amici. Suonavo Mozart e Beethoven. Questa musica in realtà non era permessa, ma poiché nessuno nel Guiyang a quell'epoca era competente di musica occidentale, potevamo tranquillamente suonarla, anche se in modo dilettantistico. Così ricorda Ku Xiaosong, compositore quarantenne che attualmente vive negli Stati Uniti, i suoi esordi di musicista nel periodo della rivoluzione culturale. Durante la rivoluzione culturale in Cina, molti compositori ebbero i loro primi concreti approcci con la musica occidentale. E pur in un atteggiamento di critica nei confronti degli eccessi ideologici del periodo appunto della rivoluzione culturale, attualmente i compositori cinesi non se la sentono di rifiutare in toto quel momento storico. Ad esempio Heng Sun Tian, compositore 42enne di Shanghai, senza dubbio uno dei compositori più originali dell'attuale scena musicale cinese, dice «Fu un periodo molto importante per me, in quanto tutta la musica che scrivevo veniva immediatamente seguita. Una tale situazione non si sarebbe mai più verificata». Ecco, quindi bisogna anche pensare che la rivoluzione culturale non fu solo un periodo di follia ideologica, di grandi e inauditi attacchi fisici e morali verso coloro che non erano in dichiarata sintonia con il regime. Nel mezzo di tutto ciò, giovani talenti esploravano ciò che veniva messo loro a disposizione, anche se il materiale che avevano a disposizione era costituito da residui di propaganda musicale stalinista, oppure da ridicole hollywoodiane imitazioni dell'opera di Pechino, tanto in voga a quell'epoca. In fondo, che cosa importava? Di fatto, però, potevano studiare liberamente questa musica e la cosa più importante è che potevano sperimentare. Per anni i compositori hanno vissuto quindi una dieta musicale veramente spartana e quindi è più che comprensibile lo shock culturale subito non appena alla fine degli anni 70 ebbero l'opportunità di entrare in contatto liberamente con la musica occidentale. Questo shock culturale liberò delle energie creative veramente senza precedenti in Cina. In quel periodo emersero una quantità di giovani talenti e alcuni di questi compositori, intorno alla metà appunto degli anni 80, scrissero almeno un paio di lavori ciascuno veramente memorabili, destinati a rimanere nella storia della musica contemporanea cinese. Bene, immergiamoci subito allora in questa produzione musicale con un lavoro di Ku Xiaosong, del quale abbiamo ascoltato, anche se in traduzione, una breve dichiarazione in apertura di trasmissione. Ku Xiaosong ha 41 anni e da qualche anno vive a New York, fa parte di quella schiera di musicisti che hanno scelto di vivere all'estero, ma su questo argomento torneremo. Intanto ascoltiamo quasi interamente questo lavoro per ensemble strumentale occidentale e cinese, quindi un ensemble misto, con una voce di basso. Il titolo è Mong Dong, che in realtà non significa niente, è un non titolo, dice il compositore, niente più che due astratte misteriose sillabe. Quindi anche il testo che viene intonato non ha un senso preciso, ma esiste solo per il suo colore. Ascoltiamo quindi una parte di Mong Dong di Ku Xiaosong, un lavoro del 1984. Oh. un estratto da Mong Dong di Cook Xiao Song, un lavoro del 1984 per ensemble occidentale e cinese, un ensemble misto. Beh, qui siamo veramente in una dimensione del tutto diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato ieri. Qui siamo per la prima volta a contatto con qualcosa che affronta il problema di un rapporto tra Occidente e Cina, tra musica occidentale e tradizione cinese, in modo assolutamente originale. È un lavoro che è anche testimonianza di un rinnovato interesse da parte dei musicisti cinesi per le loro radici culturali, per le loro tradizioni, per la loro musica popolare. Tutti nuovi interessi che, negati durante la rivoluzione culturale, sono emersi con prepotenza alle aperture degli anni Ottanta. Finalmente la tradizione poteva essere guardata per ciò che era, senza dover passare attraverso le maglie della tonalità occidentale e gli scopi propagandistici del partito. Ancora un altro breve esempio di questo nuovo modo di guardare al proprio passato, allo stesso momento di cercare e tentare un equilibrio tra una cultura musicale contemporanea occidentale e una tradizione cinese. L'esempio è tratto ancora da un lavoro di Cook Xiao Song, questa volta però più recente, del 1991. Il lavoro si ispira al tema dello struggimento derivato dalla lontananza dalla patria. Mist è il titolo di questo lavoro. Noi ne ascoltiamo solo la seconda parte delle tre che lo compongono. Il lavoro è scritto per un organico costituito da un piccolo ensemble occidentale con alcune percussioni cinesi, un soprano e un baritono. Ascoltiamo quindi Mist. Thank you. era un estratto da Mist per ensemble occidentale, alcune percussioni cinesi, un soprano e un baritono del 1991 del compositore 41enne cinese Ku Xiaosong. Xiao Song, come dicevo poc'anzi, vive ormai da qualche anno a New York e fa parte di quella schiera di musicisti di talento che hanno deciso di lasciare la Cina. L'attuale clima politico è abbastanza disteso, il controllo sembra essere quasi inesistente, anche se l'occhio vigile del potere si fa sentire soprattutto nelle università. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che ancora nel 1990, per esattezza nel giugno del 90, l'Associazione dei musicisti cinesi, che rappresenta la voce ufficiale della Cina, del partito, l'associazione organizzava un meeting dove venivano presentate relazioni di cui mi piacerebbe leggervi almeno qualche titolo. Ad esempio, stabilire il ruolo guida del pensiero di Mao, per un dibattito sulla via socialista della musica, e ancora nuovo atteggiamento critico da mantenere nei confronti della musica rock d'avanguardia, oppure marxismo e attuale situazione del linguaggio musicale, e via dicendo. Ecco, i titoli delle relazioni sono abbastanza eloquenti. Durante questo convegno, alcuni musicologi cinesi di stampo progressista, avendo preso la parola e criticato le vecchie direttive del regime, soprattutto ancora una volta il discorso di Mao, di Yan, del 1942, un celebre discorso, ecco, questi musicologi come Liang Maochun, che ho potuto incontrare a Pechino, città nella quale insegna musicologia al Conservatorio Centrale, beh, ecco, furono guardati con grande sospetto. Attualmente non c'è alcun pericolo nell'essere critici verso il regime, ovviamente mantenendosi entro a degli argini controllati. Tuttavia ho avuto la netta sensazione che in realtà ci sia una grande differenza poi nel trattamento economico, a seconda che si sia in sintonia o no con l'ufficialità. Ma vorrei ascoltare ancora un altro dei lavori che alla metà degli anni Ottanta hanno caratterizzato questa nuova e originalissima vena musicale dei musicisti cinesi. Il lavoro è di Tan Dun. Anche Tan Dun attualmente vive all'estero, a New York, ed è il più conosciuto tra i compositori cinesi. Viene considerato all'estero come il rappresentante, insieme a Ku Xiaosong, della nuova musica cinese. Ecco, mi sembra che se tale apprezzamento sia valido per i lavori di Tan Dun scritti quando ancora era in Cina, cioè fino intorno alla poco oltre la metà degli anni Ottanta, non mi sembra che un giudizio del genere possa essere condiviso per i lavori che Tan Dun scrive attualmente. Ho la netta impressione che l'influenza occidentale sia prevalente, che in fondo il compositore abbia un po' perso di originalità per uniformarsi a stilemi occidentali, d'altra parte è un pericolo sempre incombente. Ma qui si apre appunto un altro interessante capitolo che riguarda la possibilità di mantenere inalterate le proprie radici culturali nonostante la lontananza dalla madrepatria. Un capitolo che affronteremo nel prossimo incontro, domani. Ecco, il brano che ascoltiamo è tratto da On Taoism del 1985, quando Tan Dun era ancora residente in Cina. È un lavoro per orchestra occidentale e voce maschile. Sarà evidente anche qui come nei lavori di Ku Xiaosong che abbiamo ascoltato l'influenza della musica etnica del sud della Cina. Ma ascoltiamo. We'll be right back. era un estratto da On Taoism, un lavoro del 1985 del compositore cinese Tan Dun. Bene, i minuti che abbiamo ancora a disposizione, pochi per la verità, ci consentono di fare una rapidissima incursione nel mondo del rock contemporaneo cinese, con la promessa di ritornare senza dubbio su questo argomento con altri ascolti nella trasmissione di venerdì a chiusura di questi incontri. Per il momento il brano che vi propongo valga veramente come un breve assaggio di un sound che, pur non rappresentando alcuna innovazione particolare, possiede a mio avviso una vena di originalità. Il brano che stiamo già ascoltando in sottofondo è tratto dall'ultimo CD di Sui Zhen, la rockstar cinese, un musicista attivo dalla fine degli anni 70 e che non è mai stato particolarmente amato dal regime per il grande seguito proprio di pubblico giovanile di cui gode. Sui Zhen è stato anche la voce musicale degli studenti nelle giornate di Tiananmen del 1989, ma ascoltiamo quindi questo brano tratto dal suo ultimo CD pubblicato proprio lo scorso dicembre, quindi pochi mesi fa a Pechino. Ascoltiamo. Frammento, quindi, appena un assaggio del sound di Sui Zhen, la rockstar, una delle più note rockstar cinesi. E con questo ascolto Emanuele Pappalardo vi saluta, vi ringrazia dell'attenzione e vi dà appuntamento a domani, cedendo la parola ad Andrea Baggiori. Bene, allora la scatola sonora si interrompe qua momentaneamente, ripigliamo fra un quarto d'ora circa dopo il GR. A risentirci quindi a più tardi.